La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30, primi 50 secondi in diretta qui sul di Milano della radio. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, e vi invita a chiamare per dire la vostra sul tema di questa puntata. Oggi parleremo di una vicenda, tra tante, che però sta ulteriormente infiammando il dibattito pubblico a Roma e riguarda i 23.000 dipendenti del comune. È una delle grane con cui si trova ad avere a che fare il commissario Francesco Paolo Tronca, ed è la vicenda che riguarda il cosiddetto salario accessorio dei dipendenti del comune. Per chi non fosse romano, e magari anche per i romani che però non se ne occupano direttamente, quattro parole per spiegare di che cosa si tratta. È un problema che il commissario eredita da anni e anni di diverse sindacature di colore politico. Il problema nasce, in realtà diventa rilevante dal sindaco Veltroni in poi, negli anni, per essere chiari. Quindi pensate di che lunga durata si tratta. Il salario accessorio, e come vedremo, non è un problema che riguarda solo Roma, ma Roma ha particolare rilevanza, per così dire. Per i dipendenti del comune non è un salario di produttività legato a performance valutabili ex ante ed ex post, eccetera eccetera. Si è andato stratificando nel tempo, negli anni, come una componente rilevante in realtà del salario fisso, sommando le indennità più varie e diverse. C'è chi aveva nel tempo l'indennità per la pagnotta di pane se lavorava in strada, l'indennità di visa pulita, ecco, le cose varie e diverse. E pesa, a seconda della qualifica e del servizio a cui si è addetti per i 23.000 dipendenti comunali, varia tra il 21% e il 41% della busta paga. Quindi stiamo parlando non esattamente di una cifra trascurabile, stiamo parlando di centinaia e centinaia di euro ogni mese. La faccenda esplode, per così dire, quando all'inizio della sindacatura Marino, vi ricordate, chiama gli ispettori del MEF per far vedere tutti i conti. Gli ispettori del MEF, tra la quantità molto lunga, complessa e rilevante di rilievi che muovono i conti di Roma, ce n'è una che riguarda esattamente questa questione del cosiddetto salario accessorio. E la contestazione è radicale, dice: il criterio con cui voi erogate queste somme che sono arrivate a essere da 60 a 70 milioni l'anno, sono completamente inaccettabili per le nostre regole di contabilità, proprio inaccettabili, tanto più in un comune che ha avuto negli anni il riconoscimento della gestione separata commissariale di 14 miliardi di euro di debiti, e per cui si sono dovuti poi sprecare più interventi di sostegno, i cosiddetti decreti salva Roma. Quindi voi non potete erogarlo così, dice nel 2014 il MEF all'allora sindaco Marino. Proprio non potete, questa roba dovete risolverla immediatamente procedendo a identificare criteri veri di salario accessorio, altrimenti su una base fissa e così indiscriminata per tutti, noi vi tagliamo la risorsa. Allora sindaco Marino fa una proposta di modifica dei criteri, i sindacati si oppongono e viene respinta in un referendum tra i lavoratori. Siamo sempre nel 2014. Il problema resta, per così dire, così com'era, ma nel frattempo il MEF dice: guardate che noi vi abbiamo avvisato e a questo punto vi blocchiamo il fondo da cui erogate questo salario accessorio. E questa è la condizione esattamente in cui ci si trova in questo inizio 2016, cioè l'erogazione a partire dal 27 di gennaio del salario accessorio, che è arretrato da alcuni mesi relativo a quello di ottobre, si incassa a gennaio, però è un fisso ogni mese, quindi la differenza non è rilevante per i lavoratori. Però dal 27 di gennaio non si incassa quello di ottobre, a febbraio quello di novembre e così via, e quindi le buste paga ai 23.000 dipendenti del comune risultano molto sostanzialmente cambiate. Il prefetto Tronca a questo punto, Tra l'altro la Corte dei Conti ha avviato un'indagine per danno erariale per 340 milioni per le somme erogate negli anni 2008-2012 con questo criterio, ha iniziato a identificare tutti gli assessori che hanno votato le delibere con cui si è proceduto a corrispondere l'indennità di salario accessorio con questi criteri. Si vedrà negli anni, ma come vedete, insomma, la prospettiva è questa. Il MEF non solo dice voi non lo potete dare di più, ma noi ci riserviamo di chiedervelo indietro tutte le somme che avete pagato. Ecco, quindi questa è la condizione. Il prefetto commissario Tronca dice ai sindacati: ragazzi, io devo mettere mano molto rapidamente a un criterio nuovo. E i sindacati su questo dicono: no, tu innanzitutto devi trovare modo di pagarci come venivamo pagati prima, poi si vede. Ecco, questa è la condizione in cui, non mancassero i problemi a Roma, ci si trova oggi. La media della quota variabile, se uno vede tutti i dipendenti, è ripeto molto elevata. Stiamo parlando di una media di più di 3.000 euro l'anno, quindi come potete capire è molto rilevante, e da questo punto di vista però, ripeto, la faccenda non riguarda solo Roma, riguarda Firenze e tanti altri comuni in cui negli anni, stante la mancata unificazione dei criteri di corresponsione delle retribuzioni nelle autonomie, negli enti locali, si è in maniera diversa e con criteri diversi, ma insomma incistato questa maniera nei diversi comuni di procedere a questo tipo di pagamento, fino a che non c'è stato appunto il giro di vite. Ma adesso che si fa? Questo è il punto. Allora, ovviamente sul Messaggero ce ne si occupa, io stesso ho scritto diversi editoriali nel tempo su questo argomento, nelle altre città si fa meno attenzione, ma ripeto, il problema non riguarda solo Roma. E infatti oggi è intervenuto il vicepresidente dell'ANCI, Umberto Di Primio, che è anche il sindaco di Chieti, riconoscendo che il problema è ovviamente diffuso in molti comuni italiani. E quindi questo punto da parte del MEF di dire stop a questi pagamenti, altri, se non cambiate i criteri ci ridate i soldi indietro, diventa uno dei tanti punti del contenzioso. Di mezzo ci vanno naturalmente i lavoratori. Allora, grazie intanto al sindaco di Chieti per aver accettato di essere con noi oggi per tentare di spiegare meglio ai nostri ascoltatori qual è la prospettiva per uscirne a Roma, ma non solo a Roma, e per capire se esiste in questo quadro la possibilità di andare a un salario di merito con indicatori di produttività veri, oppure se nell'emergenza, perché altrimenti tra due settimane la gente inizia a perderci, i dipendenti iniziano a perdere fior di soldi, è impossibile farlo proprio adesso e bisognerà inventarsi un'altra pezza a colori. La mia opinione, e qui mi taccio, è che di pezza a colori in pezza a colori noi però a un salario di produttività pubblica non ci arriveremo mai. Va bene che stiamo aspettando i criteri dei decreti di attuazione della riforma Madia, che dovevano essere i primi 10 andare in Consiglio dei Ministri venerdì prossimo, se non che a fine mattinata abbiamo saputo che neanche al Consiglio dei Ministri di venerdì i decreti non sono ancora pronti, quindi slitteranno ulteriormente, ma in attesa dei decreti attuativi della riforma Madia, intanto questo problema nei comuni è aperto adesso e a Roma è un problema di emergenza assoluta. Allora, caro sindaco di Chieti, come possiamo immaginare che se ne esce a Roma e non solo a Roma? Buonasera, grazie. Ma non se ne esce solo a Roma, se ne esce per tutto il sistema degli enti locali e dei comuni, evidente. Perché dico ancora per informativa, prego, che se alcuni parlamentari del PD hanno tentato di far passare emendamenti sia in legge di stabilità, e adesso forse ci riproveranno anche nel decreto mille proroghe, per fare una norma solo per Roma, ma il governo ha fatto chiaramente capire, e il MEF ha fatto chiaramente capire, di non gradire, di non approvare. Per questo è importante che lei ci dica che bisogna pensare anche a un intervento sistemico, perché sennò solo per Roma l'eccezione non passa. Guardi, glielo dico perché ne sono convinto. I provvedimenti fatti ad hoc anche nella pubblica amministrazione finiscono sempre non soltanto per creare quel patchwork di troppi colori per poter essere apprezzato, di cui parlava lei prima, ma finisce per poi essere l'elemento di debolezza di tutto quanto il sistema, perché sono tutte pezze a colore che prima o poi finiscono per far affondare la barca. Quindi l'intervento, io questa mattina ho anche detto sul Messaggero che sono assolutamente d'accordo, anche il mio comune ha subito l'ispezione del MEF per anni precedenti alla mia sindacatura, ma le assicuro che il problema è identico anche nel corso della mia sindacatura. Perché? Perché il fondo che viene utilizzato dal personale, fondo economico che viene utilizzato dal personale, che tratta insieme alla parte pubblica, generalmente al direttore del settore personale, con la rappresentanza sindacale, l'utilizzo di questo fondo negli anni è stato un po' stiracchiato ed ognuno ha interpretato la possibilità di conferire ulteriori poste di salario sullo stipendio base in ragione delle cose che ricordava anche lei, che andavano dalla indennità per la pulizia delle divise dei vigili urbani ad altre forme di contribuzione. Ora, oggi noi abbiamo diverse contestazioni del MEF, e il MEF non è che richiede indietro i soldi. Il MEF dice ai comuni, ai sindaci in questo caso, che non sono parte però di quel processo di formazione del fondo e di distribuzione delle somme, quindi io credo che non debbano temere, a meno che non ci sia qualcosa di particolare su Roma, non debbano temere gli amministratori, dovrebbe temere chi ha costituito il fondo e lo ha poi utilizzato in modo erroneo. Ma oggi che cosa viene richiesto a molti sindaci? Però italiani? Scusi, l'utilizzo, prego. Questo per farci capire, non è una domanda, sì, un'illazione. L'utilizzo del fondo, sì, comune per comune, non viene autorizzato da delibere, da atti in cui sono gli assessori che votano, no? No, sì, il fondo viene costituito in sede di concertazione tra parte pubblica, rappresentata dal dirigente dell'ufficio personale e dalle rappresentanze sindacali. Così viene costituito il fondo. Che cosa succede oggi? Il MEF chiede, dopo le varie ispezioni, per più cose, non soltanto per questa, ma chiede in modo specifico per il fondo, per la contrattazione decentrata e quindi per il salario accessorio, chiede al sindaco di quel comune, a quel comune, di recuperare le somme che sono state distribuite non avendo legittimità quel riconoscimento di retribuzione. Noi ci siamo trovati, anch'io mi sono trovato a dover affrontare con molti colleghi questo problema, e chiedere oggi ad un dipendente devi restituirmi le somme che io ti ho, non è cosa semplice, ma soprattutto le dico anche da avvocato, andare ad un dipendente oggi a chiedere la restituzione delle somme quando lui non le ha percepite illegittimamente, ma le ha percepite in ragione di un accordo tra sindacati, parte pubblica, avrebbe aperto nel mentre, ricordiamolo anche questo, per ragioni di giustizia e di equità, noi siamo da 2011 con i contratti pubblici, poi il Quirinovo è bloccato, che anche questo va riconosciuto, perché è stato insieme al blocco del turnover la modalità attraverso la quale quella voce, quei 160 miliardi di retribuzioni pubbliche nel totale del bilancio pubblico italiano sono state bloccati, e quindi sono diminuite non solo in termini nominali, ma sono diminuite in termini reali sul totale della spesa pubblica. Questo va riconosciuto. Questo è vero, ma dicevo, la ipotesi di aprire un contenzioso in tutti i comuni nel momento in cui si chiedeva ha spinto noi, anche come associazione, a fare una serie di richieste di emendamenti alla legge, in particolare al DL 16 del 2014, che è il Salva Roma, poi Salva Roma. Abbiamo chiesto al MEF intanto di, come dire, far spalmare il recupero di queste somme, non tanto richiedendole indietro ai dipendenti, ma facendo in modo che nella costituzione dei fondi degli anni successivi vi fosse una quota parte ridotta da mettere in ricostituzione di quanto indebitamente percepito. Le faccio un esempio per meglio spiegare quello che ho detto. Se il fondo è di 100 e quanto mal distribuito è di 10, l'anno successivo non si ricostituisce un fondo di 10 ma di 100, ma per recuperare lo si farà di 90, e quella economia di 10 va al recupero, parziale recupero delle somme che sono state contestate. Però ci faccia capire una cosa: se la Corte dei Conti ha avviato una preistruttoria che solo per Roma e per i soli anni dal 2008 e 2012 è per un ammontare di 340 milioni di euro, se guardiamo al sistema di tutti i comuni italiani interessati, chi più, chi meno, chi in proporzioni più rilevanti, chi meno, sul totale delle buste paga medie dei propri dipendenti da questo fenomeno, si parla di miliardi però. Si parla di diversi miliardi. Consideri che il mio comune, che ha 340 dipendenti, non ne ha i 25.000 di Roma, ha 340 dipendenti, al mio comune per alcune annualità sono state contestati 900.000 euro diciamo così, salario accessorio non dovuto, che noi stiamo provvedendo a recuperare. le faccio il mio esempio, io li sto recuperando tagliando alcune voci che sono assolutamente non corrispondibili, ad esempio la produttività. Uno degli atteggiamenti che si arrivano in questa formazione del fondo è che la produttività veniva distribuita a tutti, quindi invece di produttività. Ma i sindacati come hanno reagito a questa sua proposta e poi decisione? Sono stati d'accordo? Hanno prima pensato di non sottoscrivere l'accordo per la costituzione del fondo, e quando io ho sostenuto il dirigente dicendo che insomma mi sarei infischiato della loro non sottoscrizione, ma avrei comunque costituito il fondo in quel modo, sono venuti a miti consigli, comprendendo che nessuno ha torto, mettiamola così, è una classica definizione italiana, qui nessuna colpa, però qualche responsabilità dobbiamo iniziare a ritrovare. Sì, e allora non c'è stato dolo nella costituzione del fondo in quel modo? D'accordo, però l'errore c'è stato e lo dobbiamo recuperare. Allora, chi ha percepito quelle somme, io non me la sento neppure di andarla a richiedere a tutti, perché tra quelli il vigile che è stato sotto l'acqua, piuttosto che l'addetto del servizio acquedotto che mi è sceso in una fogna per riparare la vigilia di Natale una rottura, è giusto che percepisca una indennità ulteriore, no? Rispetto al normale parametro stipendiale. È altrettanto vero che corrispondere ai vigili urbani una somma per lavare le divise non mi sembra che sia giusto utilizzo del fondo. E a questo punto però il Tesoro, se posso dire, oltre a fare invocare pulizia e a chiudere i rubinetti come a Roma, forse per primo dovrebbe contribuire a indicare dei criteri di distribuzione di una parte veramente variabile configurata come salario accessorio, che siano un pochino anche più standard, o no? Vede, io già dallo scorso anno, quando abbiamo ottenuto questo primo elemento di chiarezza nelle modalità di recupero delle somme, cioè nello spalmamento in più anni sottraendole al fondo, quindi non richiedendo ma spendendo meno, avevo anche chiesto, come ANCI abbiamo chiesto al Ministero, di dirci quali sono i parametri entro i quali sindacati e parte pubblica, seduti al tavolo del fondo, possono in autonomia scegliere a chi attribuire le quote. Perché altrimenti così ognuno in questa lassità totale va avanti della norma, a inventare, la interpreta come meglio e a consociare. Ma mi avevano dato una risposta? Non ancora. Non ha alcuna risposta su questo tema. Allora io la devo un secondo interrompere, perché abbiamo un minuto di informazioni sulla circolazione stradale. Ai cittadini di Roma, se vi fosse sfuggito, devo dire che attualmente nell'impasse, nel confronto tra sindacati e commissario Francesco Paolo Tronca, i sindacati hanno già preavvisato il 27 gennaio sciopero, il che significherà ore allungate di apertura degli uffici pomeridiani direttamente per il servizio ai cittadini, turni dei vigili urbani, cose di questo genere qua, che da quel momento, dopo lo sciopero, stabilmente se si entra in mobilitazione permanente dei sindacati, vengono poi tutte a ridursi, quindi proprio stiamo parlando dei servizi ai cittadini, se non si trova una soluzione di qui ad allora. Torniamo tra un minuto, e si è aggiunto anche un altro ospite, perché abbiamo chiamato anche il segretario della funzione pubblica CISL di Roma e del Lazio antilocali, per sentire anche l'opinione dei sindacati, in particolare nella vicenda di Roma. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo parlando del problema che è esploso a Roma, ma riguarda moltissimi comuni italiani, di una parte di salario cosiddetto accessorio per anni, corrisposta in realtà come retribuzione stabile, come una componente metà della retribuzione stabile. Negli ultimi due anni il MEF, fatta la ricognizione dei conti a Roma, dice: voi non potete più procedere così. La Corte dei Conti anzi fa una prerecognizione di una possibile apertura formale di contestazione per danno erariale per 340 milioni per le somme solo a Roma, corrisposte tra il 2008 e 2012 per 340 milioni. Abbiamo con noi il sindaco di Chieti, vicepresidente dell'ANCI, Umberto Liprimio, che cede così la somma per tutti i comuni italiani interessati a una parte della retribuzione molto rilevante data come salario accessorio, con criteri variabili da comune a comune, contrattati tra i dirigenti responsabili della gestione del personale e i sindacati in ogni comune. È una cifra che riguarda miliardi. Abbiamo chiesto al MEF già più di un anno fa di darci qualche indicazione concreta. C'è chi ha avviato il recupero della quota che proprio non si può continuare a dare in questo modo uguale per tutti, a prescindere dalla produttività, è il caso di Chieti. Il problema è che Roma adesso, con Tronca e sindacati, si trova alle strettissime, perché dal 27 gennaio la parte del salario cosiddetto accessorio, da ottobre, mese per mese in poi, non si può più dare perché il MEF l'ha bloccata e quindi bisogna trovare un accordo. Allora, Giancarlo Cosentino della CISL Funzione Pubblica di Roma e Lazio, enti locali, come stanno le cose attualmente con Tronca, per far capire a chi, soprattutto a Roma, è in ascolto e cerca di capire che cosa lo aspetta? Allora, intanto buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Cosa succedendo a Roma? Intanto volevo fare un punto su questo benedetto salario accessorio o contratto decentrato. Sì. In un ente locale è la parte fondamentale deve ovviamente dare i servizi ai cittadini, perché quella quota di salario cosiddetta accessoria in realtà deve essere contestualizzata all'ente che l'eroga. Certo. Ed è relativa alla flessibilità che viene richiesta ai lavoratori rispetto, come lei prima aveva accennato, giustamente, ad esempio alle notti dei vigili urbani quanto alle domeniche, alle flessibilità orarie che devono avere i vigili, che qui a Roma chiudono alle 19 e non già alle 14, e o anche alle flessibilità orarie delle scuole sia nidi che materne, servizio che per servizio. Certo. Quindi tutte queste somme di denaro, che vorrei chiarire, a Roma sono regolate da un atto unilaterale dell'amministrazione, quindi non c'è stata contrattazione con i sindacati, questo è ben evidenziato, quindi è un atto organizzativo proprio dell'amministrazione che ha imposto ai lavoratori. Cosa fa? Regola le varie fasi dell'offerta di servizi ai cittadini. Oggi si dice che il 27 del mese di dicembre non verrà pagato una quota delle attività già prestate, quindi non stiamo, certo, ragionando su quello che verrà pagato. Fatto. Ma la cosa più che io ritengo scandalosa, perché si fa il punto su quanto salario i lavoratori andranno a perdere, questo è un elemento fondamentale per chi guadagna 1.200 al mese, certo, come ha visto anche le classifiche italiane, Roma poi all'ultimo gradino rispetto alla quota pro capite di salario che viene erogata. La quota più importante è che questo taglio non viene fatto soltanto vivamente nelle tasche dei lavoratori, ma viene fatto in modo molto più irruento sui servizi che prestiamo alla città. Ora, Roma è una città complessissima, che assume oltretutto, facciamo un rapido conto, Torino, Milano e Napoli messe insieme più o meno fanno l'entità così, di quello sì, che si sviluppa a Roma. Consideri che Roma, con 3,5 milioni di abitanti, ha un altro milione di persone che quotidianamente circolano all'interno della capitale d'Italia, compresi i turisti. Allora, tagliare in questo modo la flessibilità dei servizi resi, in realtà vuol dire mettere la città. Ma Tronca cosa vi ha proposto nel frattempo, nell'emergenza di trovare anche un canale istituzionale rapido col MEF? Guardi, Tronca ha proposto soltanto in linea anche con gli emendamenti che si stanno ovviamente portando in Parlamento, che una volta il governo tenta di portare con i propri deputati e poi il giorno dopo subito fa finta di farli togliere. Qual è il problema? È che Roma comunque ha uno sbilanciamento, questo è quello che dice il MEF nella verità vera, sì, sono chiari, tra la quota di risorse stabili e quelle variabili. Esatto. Il MEF non mette in dubbio l'entità totale dell'investimento. I criteri. No, esattamente. Mette i criteri. I secondo criteri. Me è un gioco un po' ragionieristico. Dice, va bene 157 milioni, però le quote stabili sono troppo basse e bisogna aumentare le quote stabili e diminuire quelle variabili. In questo gioco così di aritmia... No, ma anche perché in quel modo però, diciamola tutta, la maniera è per dire che le variabili non devono andare a tutti. Devono essere misurabili e a seconda. Ecco, questo ma è il punto vero. Torno, no? Sempre a subire, torno sempre a dire che il fondo l'ha fatto il Comune di Roma in questo caso, e la modalità di erogazione è sempre del Comune di Roma. Chi paga sono i lavoratori e i cittadini, ma fermo rimanendo questo, non è un problema. Noi abbiamo detto al commissario Tronca, ovviamente, che devo dare atto di una battaglia che sta facendo con molta energia, che prendendo l'esempio di quelli che sono gli emendamenti, Roma non può fare altro che prendere atto che comunque è un nuovo ente. Lo dice la legge su Roma Capitale, lo dicono varie sentenze anche della Cassazione. In ragione di questo l'ente può dotarsi di un nuovo fondo del salario accessorio dei dipendenti. Come ci spiegava prima, sindaco di Chieti, esattamente, come hanno fatto Chieti. E rimodularlo secondo quelle le indicazioni del MEF. Il problema è che in tutti questi ragionamenti spesso accade che arrivano gli ispettori. Ma voi perché nel 2014, quando ci ha provato Marino, avete nel referendum detto no? Beh, guardi, diciamo una cosa, almeno come CISL io sono stato tra coloro che ha invece sottoscritto il contratto con nel 2015, questo è avvenuto, sì, comunque, sì, sì. Con l'amministrazione l'ho sostenuto anche a referendum, poi sa, le dinamiche interne diciamo diciamo, dei dipendenti. Allora noi continueremo a seguire quello che succede, perché io mi auguro davvero che a Roma venga risparmiato. Cioè, secondo me c'è bisogno di uno sforzo di responsabilità in questi pochissimi giorni tra il commissario che ci sta provando, perché in realtà è che poi i sindaci hanno fatto per anni marcire questa situazione, quindi il commissario ci sta provando. È chiaro che i sindacati, secondo me, devono anche loro dare prova di responsabilità. Certo, poveri dipendenti, perché per una volta io li critico sempre, ma in questo caso veramente la colpevolezza non è loro. Diciamo che la politica ne ha un po' approfittato, ecco, questo parecchio negli anni. Sentiamo come la pensa Walter da Milano. Walter, prego. Sì, buonasera. Io volevo dare questa testimonianza. Sì. Faccio parte della polizia locale di un comune dell'Interland, anche di Milano. Sì. Rimango un po' perplesso perché queste cose, perlomeno nei comuni medio-piccoli, li sappiamo da oltre 10 anni. Sì. Che l'indennità per pulire la divisa, che l'indennità del cambio sul posto, eccetera, fossero illegittime. C'è sempre stata una sensibilizzazione anche da parte delle organizzazioni sindacali. Sono più di 10 anni che il salario accessorio è legato alle performance, anche agli obiettivi. Però in tantissimi comuni medio-grandi no. Infatti, il problema è questo, che infatti in questo siamo un po' stanchi, comuni medio-piccoli, di essere giustamente controllati, quando però sui problemi medio-grandi anche la stessa... Allora, lei fa come appunto dipendente pubblico in un comune medio-piccolo, dice, beh, noi qui siamo più in regola. Che dice il vicepresidente dell'ANCI, Umberto Di Primio? È vero quello che ci dice il nostro ascoltatore, secondo lei? È vero, ma non dipende dalla dimensione del comune, nel senso che ci sono dei comuni dove queste regole sono state rispettate sempre, in alcuni comuni ci si è adeguati al primo controllo del MEF. E negli altri invece si è andati avanti. No. Rimane il punto della... Ecco, mi permetta però, se posso, certo, dire certo. Una sola cosa, anche con riferimento a quanto veniva detto sui servizi, sì. È evidente che la posizione dell'ANCI non è quella di dire togliamo il salario, certo. Ma diamolo a chi per davvero lavora. Esattamente, oggi, che secondo me è lì che è il punto di caduta. Certo che adesso si trova in 2 settimane, mi pare molto complicato, però quella dovrebbe essere la direzione da seguire. Grazie al vicepresidente dell'ANCI, grazie a Giancarlo Cosentino della CIS Funzione Pubblica. Cari romani, solidarietà, che vi devo dire, e anche ai dipendenti, in questo caso del comune, perché non bisogna negarla. Continuate su Radio 24, appuntamento all'8.